con Patrizia Santangeli, regista del film Monte Inferno, in una rassegna all'Arena Cinema Corso a Latina, martedì 6 agosto 2019. Patrizia, ben trovata. Ciao a tutti, buonasera. Certo, Lo descriviamo? è un film documentario che parla di una zona e delle persone che vivono in quella zona, una zona avvelenata da una discarica che è nata negli anni 70, che poi è stata chiusa incredibilmente nel periodo in cui è uscito il documentario, nel 2017. E quello che io ho fatto è parlare di fatti un poco, però parlare anche dell'anima del posto e delle persone che si sono ritrovati a vivere accanto ad un mostro ecologico. Loro sono andati, tutte le persone che abitano lì nei dintorni avevano scelto quella terra perché a loro piaceva molto. Lo raccontano nel documentario, per loro era il posto dei loro sogni dove far crescere i figli, dove costruire una casa e la propria attività. Se non che a un certo punto della loro vita si sono trovati accanto a questa discarica. E tutto è cambiato. E quello che io ho cercato di fare è cercare di creare le discariche. Alla fine ci interessa poco, no? Perché noi pensiamo quanto è distante da casa mia, quanto mi può avvelenare. Quindi se è distante un tot di chilometri ci tranquillizziamo. Ecco. Invece io ho cercato di creare un minimo di empatia tra la condizione delle persone e lo spettatore. E questo l'ho fatto utilizzando l'arma della bellezza. Nel film non si vede la spazzatura, ma si vede la bellezza del posto, delle persone, la capacità di educare i figli, di vivere in un certo modo la natura. Ho fatto questo. E da quello che è successo nelle proiezioni che ci sono già state, poi alla fine un po' ci sono riuscita, perché quando il pubblico rimane in sala a farmi le domande, vuol dire che insomma qualcosa è successo. Com'era nato tutto il progetto documentario? Perché io volevo partecipare a un festival web sull'ambiente, mi chiedevano un piccolo un breve video e ho detto vabbè, proviamo a realizzare questo piccolo video. Dopodiché mi sono trovata di fronte veramente una montagna di notizie, di cose. Io non sono una giornalista, quindi non ne parlo dei miei lavori, però mi sono resa conto che c'era tantissimo da dire e forse anche mostrare qualcosa che non era stato detto. Addirittura a un certo punto avevo anche rinunciato a fare il documentario perché mi sembrava una cosa più grande di me, anche perché uno dei fatti salienti che è successo da quelle parti, l'omicidio di Cesare Boschin, che è un prete ucciso dalla camorra, in realtà il colpevole non si sa ancora dopo tanti anni, anche perché le indagini sono state chiuse dopo pochi mesi. Però insomma il metodo dell'omicidio è l'incaprettamento e poi non gli è stato rubato nulla, cioè aveva i soldi della questua nella sua canonica, non gli è stato rubato. Quindi diciamo che mi sono trovata di fronte a una cosa che a me sembrava molto più grande di me. Quindi stavo per rinunciare, poi ho detto no, io non è nel mio carattere rinunciare. Quindi ho cercato proprio di trovare un rifugio nella bellezza e nella lentezza, nell'osservazione, anche nelle persone che abitano lì intorno, perché comunque sono diventati degli amici per me. Tant'è che, voglio dire, quando c'è il documentario mi sono anche preoccupata di quello che avrebbero visto, perché in genere quando si parla di discariche si mostrano dei reportage, no? E quindi molto giornalistici. E il mio non lo è. È comunque un documentario di denuncia che però utilizza altri strumenti. E invece loro ci si sono ritrovati molto e quindi questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere. Dal punto di vista ambientale, dopo la chiusura c'è stata un'attività di bonifica? No, non è ancora, che io sappia, non è ancora iniziata. Addirittura si parlava anche di una ripresa dell'attività della discarica, ma sono sempre voci che poi non trovano mai un riscontro pratico. Tieni conto che la bonifica, qualora iniziasse, per averne gli effetti ci vorrebbero veramente tanti anni, cioè per bonificare un posto del genere ci vogliono veramente tanti anni, quindi comunque non è una cosa che probabilmente potremo vedere noi, quindi non so quanto tempo occorrerà con i mezzi che si conoscono adesso. Diciamo. Continuerà il suo percorso, il suo viaggio, il documentario? Sì, guarda, il documentario è stato già proiettato in varie zone d'Italia. Io non contenta di averci lavorato dal 2013 che ci lavoro, adesso ho quasi finito di realizzare un piccolo libro che è il mio diario, realizzato durante le riprese, che ha dei contributi molto, molto interessanti che sono i fiori delle serre della famiglia Giorgi, tra i protagonisti del documentario. E c'è anche una prefazione di Bionciotti, e quindi questo succederà a settembre, quindi comunque continuo ad andare avanti. Diciamo un progetto al quale tengo in modo particolare, continuo con gli altri progetti personali, però questo è sempre molto vivo. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora il sito internet dove c'è tutto è www.patriziasantangeli.it/monteinferno. Lì c'è il trailer, c'è una quantità di materiali raccolti nel corso degli anni che potrebbe essere utile, comunque sempre in una visione un po' diversa dal solito, almeno secondo me, ma questa è la mia intenzione. Documentario Monte Inferno all'Arena Cinema Corso Latina, martedì 6 agosto 2019, alla presenza della regista Patrizia Santangeli. Patrizia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, alla prossima. Ciao e grazie.